Salvadanaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, bentornati a Salva Danaio. È fissato per domani, mercoledì 27 gennaio, l'appuntamento con la 19esima edizione di Telefisco, il convegno dell'Esperto Risponde organizzato dalle Sole 24 Ore. I lavori dalle 9 alle 17 saranno incentrati, come sapete, un appuntamento tradizionale sulle principali novità fiscali del prossimo anno, anzi di quest'anno per imprese e professionisti, dalla riapertura dei termini dello scudo fiscale ai nuovi obblighi antiriciclaggio, dall'IVA nelle operazioni con l'estero, alla Tremonti Ter, fino alla rivalutazione dei terreni e delle quote. Inoltre anche quest'anno i tecnici dell'Agenzia delle Entrate risponderanno ai quesiti sui principali temi legati appunto alla finanziaria. I lavori saranno aperti dal ministro Tremonti, a seguire gli esperti del Sole commenteranno in diretta i chiarimenti, risponderanno anche ai quesiti pervenuti online. 12 le città collegate in teleconferenza, ancora Iesi, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino. Potete collegarvi, qualora foste interessati alle modalità dell'evento, al sito del Sole 24 Ore per avere tutte le informazioni, ma anche per interagire con gli esperti messi a disposizione dal quotidiano per questo grande evento, appunto, che è una kermesse ormai assolutamente tradizionale appunto per il quotidiano. E allora naturalmente noi, per preparare il terreno a Telefisco, lo abbiamo deciso di fare appunto in una giornata precedente. Il tema che abbiamo scelto di approfondire e che cercheremo di rendervi il più digeribile possibile, perché per molti non lo è, è tutt'altro che semplice comprendere le dinamiche degli studi di settore, proprio questo dunque: gli studi di settore, il redditometro, le altre novità sull'accertamento dei redditi. Con chi domani, chi abbiamo scelto come ospite appunto a Salvadanaio, colui che domani relazionerà per tutti i commercialisti fiscalisti italiani proprio su questo argomento. Dottor Dario De Otto, commercialista provincia di Udine ed esperto soprattutto dei temi fiscali e tributari per il Sole 24 Ore, su questi argomenti sicuramente una delle firme più autorevoli. Dottor De Otto, buongiorno e grazie di essere con noi a Salvadanaio. Buongiorno, grazie a lei. Questa mattina la getteremo in pasto ai nostri ascoltatori, ovviamente, ma sono sempre molto interessanti le domande che ci fanno all'800 24 00 24, oppure se non vogliono intervenire in diretta al 349 238 6666. Prima di partire con la nostra trasmissione vi spiegheremo intanto, per chi non ne sa nulla, che cosa sono gli studi di settore, quale tipo di contribuente deve per la propria dichiarazione dei redditi affidarsi ai parametri degli studi di settore, quali sono anche le novità recenti che sono intervenute in materia. Più che dalla finanziaria, le novità arrivano da 4 sentenze della Corte di Cassazione che sono state pubblicate appunto in dicembre. Allora, prima di entrare nel vivo dell'argomento, come vi dicevo, andiamo invece a vedere la borsa. Oggi è una giornata di nuovo piuttosto pesante per l'Europa. Adesso c'è qualche cenno di miglioramento su alcuni indici, c'è l'unica eccezione di Piazza Affari, ma non è servito all'Europa il rimbalzino che dopo 3 giorni di calo consecutivi è stato registrato ieri sera a Wall Street, che ha chiuso con un rialzo dello 0,23-0,25% tra Dow Jones e Nasdaq. Oggi l'Europa flette di nuovo, i motivi sono tanti, è arrivato questo dato di cui abbiamo parlato anche nel giornale radio sul PIL della Gran Bretagna, che esce formalmente dalla recessione, c'è una crescita dello 0,1% nel quarto trimestre del 2009, ma insomma la comunità degli economisti si aspettava qualcosa di meglio. E ancora una volta questo dato conferma come la strada, il sentiero della ripresa, sarà un sentiero lunghissimo da percorrere per le economie mondiali e tra l'altro anche per gli ascoltatori che ci stanno chiedendo cosa sta succedendo ai listini da oltre una settimana. Mi riferisco all'ascoltatrice Giovanna da Imperia. Ricordo quello che ha detto Barack Obama, che ha intenzione di rivedere completamente ed imporre anche una riforma appunto per la riorganizzazione radicale del sistema bancario americano. Infatti le banche ne hanno risentito parecchio e ci sono state tante trimestrali negli ultimi tempi, alcune non sono piaciute, insomma sono tanti i motivi che stanno di nuovo tornando ad agitare l'umore degli investitori. Ma soprattutto, Giovanna, non ci dimentichiamo quello che è successo da marzo scorso a dicembre con gli indici che sono cresciuti fra il 50, 60, 70, 80%, per cui in questo momento gli investitori preferiscono prendere ogni notizia per sottrarre beneficio rispetto ai guadagni e punti incassati lo scorso anno. E non ci dimentichiamo neanche quello che sta accadendo in Grecia. In Europa qua abbiamo un'altra forte preoccupazione. Ieri c'è stata una nuova asta dei titoli greci per la quale c'è stata, per la verità, per fortuna la corsa degli investitori internazionali, però la Grecia ha dovuto riconoscere un rendimento su questi titoli del 6%, per cui vediamo fino a quando anche potrà permetterselo. Intanto le aste non vanno deserte, per fortuna, per cui significa che c'è domanda di questi titoli e ancora c'è il sostegno della comunità internazionale anche a questo paese. Di tutti questi argomenti non ne riusciamo a farlo domani perché abbiamo un altro argomento, ma ci torneremo giovedì a Salvadanaio. Adesso però lasciamo la borsa, do rapidamente i migliori titoli della seduta a Piazza Affari. Abbiamo l'ottomatica con un rialzo di 2 punti, STM più 0,9, Mediolanum più 0,7, Enel più 0,4. I ribassi più forti: Unicredit meno 3,63, Fiat dopo i dati di ieri perde il 2%, anche ieri ne ha persi più di 3, Exor meno 1,78, Mondadori meno 1,76, Bulgari meno 1,59, Tenaris meno 1,75. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Come vi dicevo, Salvadanaio prepara il terreno a Telefisco con il tema gli studi di settore. 26.300 euro l'anno. A tanto ammonta la busta paga lorda media del popolo degli studi di settore, vale a dire oltre 3,7 milioni di contribuenti sparsi tra piccoli imprenditori, professionisti, commercianti, ambulanti e artigiani. La fotografia è stata scattata dal Dipartimento delle Finanze, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e della Società per gli Studi di Settore, analizzando i dati statistici relativi al 2007. Le tabelle, che in pratica cercano di stabilire quanto debba incassare un artigiano, un commerciante o un professionista in base alla zona dove esercita la professione e all'andamento dell'economia, mostrano quindi un'Italia delle professioni con redditi mediamente modesti. Baristi che guadagnano 17.000 euro al pari degli operai, parrucchieri ed estetisti con un reddito medio di 13.400 euro, di poco superiore a quello di un pensionato. Albergatori con circa 21.000 euro di reddito, simile a quello di una maestra elementare con qualche anno di esperienza. Si tratta di numeri relativi ai guadagni del 2006-2007, quindi prima della crisi economica, che segnano un deciso confine tra il nord e il sud dell'Italia. Nel 2007 il 57,2% del totale dei ricavi o dei compensi è stato dichiarato al fisco da professionisti, imprese, artigiani e commercianti del nord. Il restante 42,8% lo hanno denunciato complessivamente i soggetti attivi al centro, al sud o nelle isole. Nel divario tra le due Italie degli studi di settore, la Calabria si segnala con il reddito medio dichiarato più basso e pari a 16.500 euro. L'intero mezzogiorno si attesta a quota 19.200 euro. All'estremità opposta c'è la Lombardia, con un reddito medio di 33.900 euro, seguita dai 31.700 euro del Trentino e dai 29.800 di Friuli e Veneto. E allora, vi abbiamo proposto nella nostra scheda quanto è emerso da quest'ultima fotografia scattata dal Dipartimento delle Finanze con l'Agenzia delle Entrate e la SOSE, la società che gestisce gli studi di settore. Noi ovviamente, più che commentare questi numeri, ci piacerebbe, visto che Salvadanaio, sapete bene, è una trasmissione che ha un carattere di servizio, spiegarvi intanto come un contribuente, una partita IVA, deve ottemperare i parametri appunto degli studi di settore, e quindi stamattina ci spiegherà tutto il dottor De Otto. Comincio subito con la prima domanda e le vorrei chiedere, dottor De Otto, se è sempre obbligatorio per un professionista, per una partita IVA, per un lavoratore autonomo fare la dichiarazione dei redditi attenendosi agli studi di settore, affidandosi agli studi di settore, o è una scelta su base volontaria? Innanzitutto andiamo a inquadrare gli studi di settore. Gli studi di settore sono una forma presuntiva di accertamento, e questo significa che evidentemente non c'è alcun obbligo di adeguamento al risultato di GERICO, questo indubbiamente. Poi ci spiegherà anche che cosa è GERICO e come si mettono in relazione i due strumenti, perché se vado per piccoli passi, perché non tutti conosciamo la tematica fiscale, anzi molto complessa poi questa, sì. Quindi appunto, tornando all'obbligatorietà o meno per un professionista? Non c'è alcun obbligo, sotto questo profilo. Ricordiamo che gli studi di settore tendenzialmente vorrebbero individuare i ricavi o i compensi per i professionisti che devono essere dichiarati nella dichiarazione, però ribadisco, è un metodo presuntivo. metodo presuntivo che nasce nel 1993, quando vi è stata l'esigenza di sostituire le forme presuntive come la minimum tax e i coefficienti presuntivi, che erano forme assolutamente ingiuste. Nel 1993, sì, prendendo l'esperienza francese degli studi di settore, si pensò di istituire questa metodologia di accertamento, che poi di fatto venne attuata appena nel 1999 con 6 decreti. Il fatto è che sugli studi di settore sono stati un grosso malinteso favorito anche probabilmente da un certo appiattimento, perché gli studi di settore, come poi lo diremo, come oggi dice la Cassazione, non rappresentano altro che un indice di anomalia del comportamento fiscale del contribuente. Tuttavia, diciamo dal 2002 in poi, abbiamo avuto una serie di circolari dell'amministrazione finanziaria in cui si diceva che il risultato degli studi di settore rappresentava da solo l'unico elemento per eseguire l'accertamento nei confronti del fisco, cioè assimilandolo a una presunzione legale. E da qui un certo convincimento indiretto e soprattutto subito che hanno subito proprio i contribuenti, i quali evidentemente di fronte al rischio di un accertamento quasi certo sono stati spinti ad adeguarsi. Per fortuna, anche attraverso le pagine Sole 24 Ore, diciamo che la realtà è affiorata fino ad arrivare appunto a questa ultima sentenza della Corte di Cassazione, anzi quattro sentenze. Alle quali arriviamo adesso, dottor De Otto, però vorrei rimanere ancora nell'ambito generale, perché mi incuriosisce questa affermazione che lei ha fatto sulla non obbligatorietà a presentare la denuncia dei redditi secondo affidandosi appunto agli studi di settore. Chi non lo fa, come dire, che cosa rischia teoricamente? Una probabilità in più di accertamento dei redditi maturati nel corso dell'anno, e quindi lei diceva alla fine un professionista si sente spinto, come dire, a comunque ad affidarsi agli studi. Ma allora, diciamo, chiariamo subito questo, diciamo che fino a poco tempo fa sicuramente si sentiva spinto per questo queste affermazioni fatte da talune circolari dell'amministrazione finanziaria, quindi sapeva che se non si adeguava correva il rischio di un accertamento che significa subire evidentemente delle spese, pensi alla spesa del professionista, il fatto che il 50% delle maggiori imposte vengono iscritte a ruolo. Abbiamo condotto sulle pagine del Sole 24 Ore una battaglia da vari anni sul fatto che gli studi di settore da soli non potevano invece legittimare l'accertamento del fisco. E diciamo che poi nelle varie commissioni tributarie si è fatta strada questa tesi, e pertanto è importante che chi ci ascolta sappia, questo non vuol dire, attenzione, demonizzare gli studi di settore. Gli studi di settore hanno indubbiamente avuto dei meriti, cioè quello di far dichiarare un attimino di più i contribuenti dove effettivamente i redditi erano risibili, e quindi no? L'evasione è alta, certo, immagino. Hanno sicuramente un merito, però il problema è che occorre applicare le regole, e le regole dicono qualcos'altro, no? Dicono che lo studio di settore da solo, essendo un indice matematico statistico, non può supportare l'accertamento dell'amministrazione finanziaria. E infatti proprio su questi punti credo che siano intervenute le sentenze della Cassazione che abbiamo citato fino a questo momento. Allora, come vi dicevo, oggi Salvadanaio prepara il terreno a Telefisco, la grande manifestazione, il convegno dell'Esperto Risponde, organizzato ogni anno dal Sole 24 Ore. Quest'anno si svolge domani, mercoledì 27 gennaio. Ovviamente i lavori sono incentrati su tutte le novità fiscali che riguardano imprese e professionisti. Ad aprire i lavori domani mattina sarà il ministro dell'economia Giulio Tremonti. 12 le città collegate in teleconferenza. Peraltro quest'anno anche la novità che si potranno porre domande via SMS al 335 7799 299. Naturalmente domani, questo è il numero per porre quesiti agli esperti di Telefisco, mentre per porre le vostre domande a Dario De Otto, commercialista esperto di temi fiscali per il Sole 24 Ore sugli studi di settore, potete chiamare come sempre l'800 24 00 24. 24. Per il resto, per tutte le informazioni su Telefisco, potete collegarvi al sito www.ilsole24ore.com/telefisco. Allora, Dario De Otto, stavamo spiegando intanto come sono nati gli studi di settore, quali sono un po' anche le polemiche che hanno accompagnato in questi anni il percorso di questo strumento anche di accertamento del reddito, delle partite IVA in particolar modo, strumenti di accertamento che interessano almeno 3.700.000 contribuenti nel nostro paese. Abbiamo cercato di spiegare cosa vuol dire adeguarsi o meno agli studi e adesso abbiamo anche qualche riflessione da parte di alcuni ascoltatori, ma le volevo chiedere anche se voleva commentare questo primo commento che ho letto di Roberto da Bergamo, che addirittura insomma ci manifesta la situazione clamorosa di chi addirittura per adeguarsi e quindi probabilmente anche per evitare accertamenti fiscali si adegua agli studi di settore inventandosi dei documenti appunto di dei documenti fiscali, come in questo caso le fatture. Dottor De Otto, guardi, allora il problema è questo, che gli studi di settore sono stati diciamo strumentalizzati. In sostanza cosa è stato fatto, insomma, in qualche modo comprendere che se uno non si adeguava ai risultati degli studi di settore subiva l'accertamento, e questo effettivamente gli uffici l'hanno fatto e in tanti casi ahimè continuano a farlo. No, tra l'altro poi l'accertamento fiscale, dottor De Otto, comporta sempre che comunque il fisco ad aver ragione, che in ogni caso il professionista deve adeguarsi agli studi, o in qualche caso ha ragione anche il contribuente ed effettivamente i redditi percepiti non devono adeguarsi, in sostanza, non rientrano nei parametri. Perché avere un contenzioso, un accertamento significa comunque avere, possiamo dirlo, una rogna in piedi, perché evidentemente occorre andare in commissione tributaria, occorre farsi assistere da un professionista abilitato che ha una spesa, no? Si pensi lei 10.000 euro di ricavi che secondo il fisco non sono dichiarati, andare in contenzioso significa una spesa legata a un professionista che assiste il contribuente, significa che questo subisce l'iscrizione del 50% delle maggiori imposte sui maggiori ricavi, effettivamente questo rappresenta un grosso problema. Diciamo che gli studi di settore sono frutto di un grosso malinteso. Deve essere chiaro un dato. Su 100 che abbiamo pubblicato la scorsa settimana sul Sole 24 Ore, su 100 contribuenti non congrui, la media dei soggetti che vengono chiamati al contraddittorio con il fisco sono attualmente 3,2. Quindi lo pochissimi. Scorso anno erano 5,8. E questo cosa significa? Che il gran parte del risultato che si è avuto attraverso gli studi di settore sono opera di un convincimento più psicologico che è legato alle regole. Abbiamo pensato, o meglio, molti hanno pensato che era obbligatorio adeguarsi agli studi di settore, invece come sta emergendo e come abbiamo sempre sostenuto, non era affatto obbligatorio. E non solo, il fisco per fare l'accertamento deve prima chiamare al contraddittorio il contribuente e poi, assieme ad altri elementi che devono ottenere la specifica attività del contribuente, può soltanto in quel momento effettuare l'accertamento. Uh-huh. Il fisco purtroppo ha fatto gli accertamenti fino a poco tempo fa e probabilmente ancora in questi giorni basandolo solo sul risultato degli studi di settore. E questo ha determinato questa situazione di assoluta incomprensione su quella che è l'effettiva portata degli studi di settore e quindi le giuste proteste anche dei contribuenti che si trovano di fronte a una non applicazione delle regole. Allora, adesso torneremo ad approfondire anche la natura di questo malinteso, come il dottor De Otto l'ha definito. Peraltro poi vorrei anche chiarire che cosa vuol dire una volta appunto sostenuti tutti gli adempimenti che devono essere sostenuti appunto per fare la dichiarazione dei redditi da parte di un artigiano, di un commerciante, quindi di un professionista, quindi di una partita IVA, che la dichiarazione sia congrua o meno secondo i parametri appunto degli studi di settore, quindi ancora un po' di ABC su questo strumento di verifica appunto del reddito. Sentirei però, visto che aspetta dall'inizio della trasmissione, anche Maurizio da Modena, un ascoltatore, un libero professionista se non sbaglio. Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Aspettate che sono sull'Appennino, quindi a costo. Per carità. Allora, sì, io sono un libero professionista di Modena da sempre, no? Da 8 anni, da quando ho iniziato la mia attività. A questo punto il mio intervento, visto quello che è appena stato detto, è superfluo. È semplicemente una testimonianza di come gli studi di settore siano uno strumento forse pensato bene, ma che poi si è sclerotizzato. Questo che cosa vuol dire? Che dopo le difficoltà dell'avvio di carriera c'è stato un momento, a metà diciamo così, della mia carriera, nella quale io ho avuto traslochi, acquisto casa, cioè c'è stato negli introiti un calo delle entrate fisiologico pesante, che oggi per fortuna ho recuperato. Però in quel momento il commercialista cosa fa? Mi para davanti la minaccia dicendo: anche se hai guadagnato meno, ti conviene mentire e dire che hai guadagnato di più. E io gli ho detto: per quale motivo? Perché non è mai bene mettersi contro il fisco, perché non ne uscirai. Cioè, non è uno strumento elastico, è uno strumento tale per cui una persona non è concesso di dire la verità. Cioè, non è concesso dire che io 4 anni fa ho guadagnato il 30% in meno o il 40% in meno, perché lo studio di settore presuppone un crescendo che oggi come oggi non è più reale. Mm-hmm. Non solo, tenendo anche conto della crisi, io lavoro con delle persone e per sopperire alla crisi ho operato quello che, tra virgolette, diciamo in maniera molto banale, uno sconto alle persone che vedo, che va dal 20 al 30%, proprio perché loro, molti sono andati in cassa integrazione, molti sono stati licenziati. Lo studio di settore ignora questa flessione, cioè sembra uno strumento che non è più a contatto con la realtà. No, tra l'altro Maurizio, lei ha fatto una considerazione molto interessante. Per quale motivo? Perché voglio dire, adesso, a parte la situazione in cui si può essere trovato lei magari in via del tutto individuale, in un particolare frangente della sua storia professionale, perché ha sostenuto delle spese più forti che negli anni passati, eccetera, ma adesso è un momento delicato per una marea di imprese, dottor De Otto, per cui sembra assolutamente anacronistico che gli studi di settore continuino a valutare le entrate degli stessi professionisti con le stesse modalità degli anni passati. Oppure, insomma, ci sarà un po' più flessibilità, come chiesto da Maurizio, in un frangente come questo? E perché gli studi di settore sono assolutamente così rigidi? Allora, diciamo che innanzitutto Maurizio ha detto effettivamente le cose come stanno e insomma ha rappresentato bene la situazione. Tra l'altro anche sono le cosiddette, mi scusi, poi non la interrompo più, le cosiddette luci ed ombre, che sono addirittura anche delineate sul sito della SOSE, che è la società al quale è affidato proprio il compito di svolgere tutte le attività relative alla gestione degli studi di settore, per cui l'amministrazione finanziaria pubblica è ben cosciente di questi malumori intorno agli studi, o no? Ma assolutamente sì, assolutamente sì, soltanto che capisce perfettamente che gli studi fanno cassa, fanno gettito, ed ecco perché gli studi di settore sono stati in qualche modo strumentalizzati. Pensiamo, basterebbe che i nostri ascoltatori leggano, non so, una circolare del 2002 dell'amministrazione finanziaria, 58 e del 2002, lì si dice: Gerico da solo può fare l'accertamento. E noi sul Sole 24 Ore abbiamo scritto: no, assolutamente no, spiegando tutte le ragioni. Oggi l'amministrazione finanziaria, per dire la verità, dal 2008 ha incominciato a tentennare e incomincia a dire a livello centrale: no, gli studi di settore non bastano per supportare l'accertamento. Però purtroppo gli uffici periferici continuano a farlo. Tutto sommato, però, adesso anche a livello centrale l'Agenzia delle Entrate sta dando degli indirizzi agli uffici periferici affinché si tenga conto non solo del risultato igienico, ma anche di altri elementi che derivano dalla specifica situazione del contribuente. E qui vado alla questione della crisi. Attenzione, Gerico viene revisionato costantemente nel tempo e quindi ci sono degli specifici indicatori. settori che tengono conto anche della crisi, e questo dobbiamo darne atto. Tuttavia è sempre un metodo matematico-statistico che evidentemente non può percepire la reale situazione del contribuente, come nel caso di Maurizio che abbiamo visto prima. No? Dottor De Otto, sì, solamente per interromperla devo andare ai suggerimenti perché in viaggio, ma ne do altri 30 secondi di tempo tanto per spiegare a mia zia che abita nelle Marche, su questi temi non ha nessun tipo di confidenza con questi temi. Mi può dire in 30 secondi che cos'è Gerico? Gerico è il software sostanzialmente in base rilasciato dalla, diciamo, dall'amministrazione finanziaria, in base al quale si determinano presuntivamente i ricavi o i compensi del contribuente e quindi dell'imprenditore del professionista. E quindi tanti Gerico formano poi lo studio di settore. Possiamo banalizzare così, è un programma software, certo, in base ai risultati dell'inserimento dei dati all'interno di questo programma si determina poi, come dire, tutta una situazione complessiva di una categoria all'interno della quale molti di noi sono inquadrati. Gli studi di settore, allora vi siete svegliati un po' tardi, ma poi vedo che l'argomento vi ha cominciato ad attirare. 800 24 00 24, il numero verde per interagire con noi questa mattina, soprattutto con il dottor Dario De Otto, commercialista, esperto di temi fiscali e tributari per il Sole 24 Ore. Domani uno dei vari protagonisti di Telefisco, la grande kermesse fiscale del Sole 24 Ore, dottor De Otto, nel pomeriggio parlerà proprio degli studi di settore, il redditometro e le altre novità sull'accertamento. E allora, eravamo rimasti intanto alle basi con cui si forma uno studio di settore, dottor De Otto. Io banalizzo ancora, poi naturalmente lei ha il compito di rendere un po' più tecnico alla nostra riflessione. Io sono un commerciante nel settore dell'abbigliamento, ammettiamo, secondo gli studi di settore, facendo questo tipo di professione a Milano devo guadagnare un determinato tipo di reddito, immagino che sia poi tra l'altro un range di reddito, non una cifra esatta, ma naturalmente lo stesso tipo di professionalità, lo stesso tipo di attività esercitata a Palermo evidentemente mi farà includere in uno studio di settore di tutt'altro tipo. Ma diciamo che lo studio di settore è lo stesso se si svolge la stessa attività. Gli studi di settore, quindi quel famoso programma Gerico di cui abbiamo parlato, dovrebbe tenere conto di tutta una serie di elementi di tipo personale e quindi anche del fattore territoriale. Cioè gli studi di settore, quindi il software Gerico, si forma attraverso una serie di dati che sono forniti, che sono stati forniti inizialmente dai contribuenti, sia di tipo contabile che di tipo extracontabile, attraverso la dichiarazione. E tutti questi dati sono in possesso di quella società SOSE che lei ha richiamato, che peraltro adesso sembrerebbe che provveda anche a in qualche modo a vendere questi dati alle varie associazioni di categoria, perché è una grossa miniera di dati che detiene. Associazioni di categoria tipo a voi commercialisti? Le associazioni di categoria associazioni di categoria non sono i commercialisti, comunque sono, non so, gli artigiani, i commercianti e così via. Tenga presente che se il contribuente non indica ad esempio correttamente i dati nella dichiarazione viene sanzionato. E mi fermo qui. Certo, vabbè, questo capisco. Quindi magari insomma si può avere anche attraverso l'arrivo dei risultati, appunto, delle statistiche elaborate dal SOSE ai diretti interessati, forse si può capire anche come meglio comportarsi, probabilmente. Allora, tra l'altro, sulle modalità di elaborazione degli studi di settore c'è Moreno da Rovigo, credo che volesse continuare anche sul filone che stavamo affrontando adesso. Moreno. Sì, salve, buona giornata. Buongiorno. Niente, io sono operatore del settore elettrico, no? La mia domanda è questa. Io lavoro nella zona del Rodigino, dove quando esci con un 24-25 euro all'ora come artigiano sei già troppo caro. Io capisco che nella zona di Milano, nella zona di Roma, molto probabilmente lavoreranno a 32-35 euro all'ora, come sarebbe giusto fare. Però lo studio di settore, visto che è una componente tra materiale acquistato e manodopera aggiunta, dopo cosa succede? Che ci troviamo a fine anno, anzi ci troviamo a marzo dell'anno dopo, a scoprire che non siamo congrui perché abbiamo una percentuale di ricavo che è inferiore a quella pattuita dello studio settore, e questo dipende dalla manodopera, vedo che la manodopera non è coerente con la quantità di materiale acquistato. Grazie Moreno, e qui ritorniamo un po' nell'ordine tutte le perplessità che i professionisti e i diretti interessati ad ottemperare gli studi di settore hanno già manifestato più volte in questi anni, sono un po' più quelle luci ed ombre che dicevamo prima, dottor De Otto. Però ci spiega intanto che cosa vuol dire essere congruo o non essere congruo, come ha detto anche Moreno? Essere congruo significa dichiarare dei ricavi come chiede il software, questo famoso software GERICO, significa essere allineato ai valori che questo software dà, sulla base appunto di questi calcoli matematico-statistici. Però ribadisco una cosa, si deve assolutamente mitigare la portata degli studi di settore, cioè in sostanza gli studi di settore vanno ridimensionati, sono una presunzione semplice che ha bisogno di altri elementi per fare l'accertamento. Questo è importante che i contribuenti capiscano questo, e quindi quando il commercialista o l'accertatore di categoria dice devi adeguarti, occorre rammentare, dice ma perché mi devo adeguare se il fisco deve trovare altri elementi? Quindi occorre necessariamente valutare la singola situazione del contribuente e non pensare allo studio di settore come un metodo in base al quale sono obbligato a dichiarare quei valori. Ecco, allora andiamo giusto a questo punto che lei diceva, dottor De Otto. Le sentenze che abbiamo detto prima della Corte di Cassazione, che sono state pubblicate, se non sbaglio, in dicembre, che cosa hanno stabilito relativamente proprio al fatto che alcune posizioni possono essere non dichiarate congrue, parte allora ammettiamo l'accertamento, ma quali tipi di accertamento vanno fatti secondo quanto queste sentenze hanno stabilito? Le sentenze hanno stabilito questo, parliamo di Cassazione delle Sezioni Unite, dice gli studi di settore sono una semplice anomalia del comportamento fiscale del contribuente, la quale anomalia può legittimare al più l'emanazione di un invito a un contraddittorio con l'ufficio, nel quale il contraddittorio evidentemente lo stesso non si può basare soltanto sul risultato di questo software GERICO, ma occorre rappresentare anche altre situazioni relativamente alla specifica attività del contribuente. Solo a questo punto, se nell'ambito di questo contraddittorio il fisco e il contribuente non trovano un accordo, ebbene l'ufficio può emettere l'atto d'accertamento, il quale però atto d'accertamento non può basarsi soltanto sui risultati degli studi di settore, ma dovrà specificare soprattutto le ragioni per le quali, nonostante quanto evidenziato nell'ambito del contraddittorio, l'ufficio sta facendo l'accertamento anche sulla base di ulteriori elementi. Ecco, quindi in sostanza queste sentenze hanno reso il sistema un po' più flessibile. Secondo lei che tipo di conseguenze potranno comportare, appunto, che conseguenze potrà comportare quanto ha deliberato la Consulta? Il fatto che molti professionisti a questo punto decideranno, rischiando ovviamente questo, come lo definiva lei, anche contraddittorio, perché così poi che si chiama, con il fisco direttamente, quindi potranno rinunciare ad adeguarsi agli studi? Ma sì, non sono mai stati obbligati. Sì, questo è vero. La sentenza è del 18 dicembre 2009, noi l'abbiamo scritta nei giorni immediatamente successivi. Queste sentenze hanno questi effetti, innanzitutto per gli uffici, perché gli uffici devono sapere, uffici dell'amministrazione finanziaria ovviamente intendo, che non potranno mai più fare accertamenti basandoli solo sui risultati degli studi di settore. Per i giudici tributari evidentemente, perché di fronte a un altro accertamento basato sullo studio di settore deve necessariamente essere annullato, e infine per i contribuenti, i quali devono sapere che non basta GERICO per supportare la pretesa del fisco, e quindi i contribuenti non devono subire psicologicamente gli studi di settore. Questo. E anche mi permetta, dottor De Otto, chiudo con una provocazione per lei, spero che ci si faccia una risata, anche quella del commercialista che comunque insiste ad adeguarsi ai parametri, ma se il contribuente è davvero assolutamente convinto del fatto che magari per un determinato periodo non ci sta all'interno dello studio, magari forse è meglio in qualche caso rischiare il contraddittorio diretto col fisco piuttosto che adeguarsi agli studi se questo costa un po' di più e non si ha ragione di pagare appunto di più il fisco qualche volta. È d'accordo in 5 secondi? Sono lasciando la porta aperta. Benissimo, allora tra l'altro io so che non ho accontentato alcuni ascoltatori che avevano delle argomentazioni, delle telefonate piuttosto lunghe. Domani collegatevi al sito del Sole 24 Ore per assistere anche ai lavori di Telefisco, potrete assistere anche all'intervento del dottor De Otto su questi argomenti. Se volete scriveteci anche all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, tutta la rosa degli esperti del Sole sarà anche a nostra disposizione per rispondere ai vostri quesiti. Noi ci sentiamo domani, buona giornata a tutti. Salva Danaio.